nuvole rosse al tramonto infiammano il mare di sera, ricordano a volte un racconto che ci rende la vita più vera. Nel silenzio le cose più strane non ascolto ma riesco a sentire, le voci di un bimbo e di un cane, una volta per farmi capire. Giochi innocenti giù al mare, ignorando il tempo e il destino, per il cane il momento di amare era darsi per un bambino. Poi di corsa seguendo una voce e la gioia nei dolci momenti, tornare correndo veloce, porgendo un bastone fra i denti. Il gioco è in mano alla sorte, è feroce a volte il destino, improvvisa è arrivata la morte a rapire per sempre il bambino. Forse un cane non ha la favella, oppure non vogliamo capire, per il bimbo lassù su una stella digiuno per lasciarsi morire. Le nuvole rosse al tramonto disegnano il cielo di sera, a volte cogliamo un momento e la notte sarà meno nera. Li vedi per strada d'inverno, negli stenti il loro cammino, condannati per fame all'inferno, abbandonati al proprio destino. Una luce per farmi capire i momenti a volte un po' strani, una bestia per amore morire, e non c'è il paradiso dei cani. Chi ti ama non farlo soffrire, siamo noi a segnarne la sorte. Forse un giorno riusciremo a capire che all'amore diamo in cambio la morte. Corrono i giorni e i tramonti, ogni cosa del tempo rimane, anche il bimbo nei nostri racconti, poi l'amore e la morte di un cane. Ogni giorno passato a capire se le cose son vere o un po' strane, se di notte riusciamo a dormire, sentire la vita di un cane. Forse un cane non ha la favella, eppure lo riesco a capire, da quando raggiunse una stella, digiunando per lasciarsi morire.